Allora parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, sapete quello che non capisco io? Ovviamente quando una persona muore e sono passati 5 anni e si arriva a un verdetto di appello dopo 5 anni, quando una persona muore siamo tutti molto dispiaciuti e vogliamo sapere la verità, vogliamo sapere sempre la verità. Cioè uno muore dopo essere stato detenuto per un certo numero di giorni e per possesso di droga e uno vuole sapere perché questa persona è morta, soprattutto quando questa persona è nelle mani dello Stato. Però non riesco a capire perché quando c'è una sentenza di assoluzione tutti quanti gridano allo scandalo, cioè dire oggi c'è stata la sentenza di assoluzione, cioè tutti gli imputati, erano rimasti solamente i medici e gli infermieri della vicenda Cucchi, sono stati assolti in secondo grado in appello e tutti a gridare allo scandalo, tutti quanti a gridare allo scandalo, una vergogna allo Stato, eccetera eccetera. Punto interrogativo, perché? Cioè perché la vergogna? Perché uno si dovrebbe vergognare? Perché i giudici in due giudizi diversi, in primo grado, o uno dice i giudici sono al soldo dello Stato, degli agenti di polizia penitenziaria contro la famiglia Cucchi, oppure non si capisce perché uno si debba scandalizzare per un verdetto di assoluzione e invece debba essere sempre d'accordo con un verdetto di condanna. Comunque sentiamo Ilaria Cucchi, che ovviamente insieme alla famiglia è incazzata. Dice tra l'altro Ilaria Cucchi che suo fratello è stato massacrato. Io so che mio fratello è morto per quelle botte, so che mio fratello non sarebbe andato in ospedale se non fosse stato per quelle botte e so che è assolutamente falso che mio fratello sarebbe morto anche a casa sua. Stefano la prima volta è morto qui a Piazzale Clodio quando si è trovato davanti a dei magistrati ai quali non importava niente di lui. La realtà è che a Stefano non importava nulla in quei 6 giorni e che continua a non importare nulla a nessuno. Questa è la famiglia Cucchi, poi c'è anche il padre, la madre, lo Stato si è autoassolto, è morto 3 volte, è morto in modo orrendo nell'ambito dello Stato. La tesi è che sia stato picchiato a morte e per queste botte sia morto. E nessuno, né in primo grado né in secondo grado, lo ha riconosciuto. Dunque c'è, secondo la famiglia Cucchi, una giustizia malata, probabilmente delle complicità all'interno dello Stato. Oppure, boh, chissà. Parenzo, ma ci sei o no? Sì, ci sono, no, ma aspettavo che tu finissi l'argomentario, non volevo interrompere il flusso narrativo, diciamo. Io sono tra quelli indignati comunque. Ah, sì. Sei indignato tu? Sì, volevo dirtelo subito, poi ascolteremo. No, vai. Sono tra quelli indignati. La sentenza va rispettata come si rispetta quella di Berlusconi, come si rispetta, sì, Rubi, che non era la nipote di Mubarak. La magistratura ha detto che lui sapeva che non era maggiorenne, quindi va benissimo tutto. Le sentenze, io sono tra quelle che ha sempre detto, vanno rispettate. Quello che mi fa schifo di quello che ho letto in queste, sì, ore, sì, appena uscita la sentenza, sì, sono gli sciacalli. E gli sciacalli sono quei politici che hanno usato il corpo di Cucchi per fare della propaganda politica. Il corpo di un morto. Io non ho sentito nessuna dichiarazione oggi, per adesso. Ho sentito dichiarazioni del SAP. Ho sentito dichiarazioni del SAP per adesso. Sì, comunque. Del SAP, che è il sindacato autonomo di polizia, che ovviamente per difesa corporativa non deve difendere i poliziotti. Ed è un abbiamo con noi il senatore del Nuovo Centrodestra, Carlo Giovanardi. Giovanardi, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci qui. Allora, ecco uno sciacallo. Ma che c'entra? Ma perché gli dai dello sciacallo? Ma non ha parlato ancora. Perché gli dai dello Cruciani? Cruciani. Ma io veramente divento Cruciani, pazzo. Non ha parlato, gli dai dello sciacallo. Dimmi. Allora, con quel signore che ha parlato ci rivediamo in tribunale, perché io su questa frase che ha fatto lo querelo, chiaro? Secondo me, per carità, uno dice sciacallo, non ha parlato e dici sciacallo. Tutto quello che Giovanardi in questi anni ha detto sulla vicenda Cucchi usandola politicamente, questo è il senso del mio intervento. Ma andiamo, accetto la querela e andiamo avanti. Bravo, Io ti do querela. Allora, lei ha usato la vicenda Cucchi politicamente, caro Giovanardi. Lei questo ha fatto fino ad ora. Allora, ti voglio segnalare, Parenzo, che il senatore Carlo Giovanardi. Aspetta, un attimo solo. Io ti voglio segnalare, Parenzo, che il senatore Carlo Giovanardi è stato invitato dal sottoscritto in questa trasmissione. Ma aspetta. Allora, una cosa, allora, se tu condividi il fatto che io abbia invitato il senatore Giovanardi. Questo, amico mio. No, non si può fare il gioco di chi inizia. Ma tu puoi dire quello che pensi dopo aver ascoltato. Primo, secondo, tu non puoi iniziare. Sì, ma tu non puoi iniziare un programma in cui senti una persona e gli dai dello sciacallo. Chiaro? Io ho tutte le dichiarazioni. Ma questo non c'entra niente adesso. Stiamo parlando di quello. In questi anni che noi abbiamo intervistato. Hai deciso di fare saltare tutto. Benissimo, no, ma va bene. Fai come ti pare. Allora fammi parlare col senatore Giovanardi. Quello che lui ha detto in questi anni. Lui ha usato la vicenda Cucchi per fare politica. Hai detto che è uno sciacallo. L'hai detto chiaramente. L'ha detto chiaramente. Basta, punto. Questo risolviamo in tribunale. Veniamo invece alle cose serie. Però la prima domanda è questa. Adesso non stiamo a ricostruire il fatto perché lei si è interessato oppure no. Devo dire, io mi sono interessato del caso in veste istituzionale, perché quando è accaduto io ero al governo, avevo la delega delle tossicodipendenze e mi interessavo proprio di casi nei quali, come questo, la storia è riserita in una vicenda in cui la droga c'entrava. Quindi quando c'è stata la discussione, io sono intervenuto istituzionalmente per far presente quel punto di vista che poi è già stato suffragato da due sentenze. Va bene, allora io le faccio questa domanda, Giovanardi. Il fatto che sono stati assolti tutti significa che aveva ragione lei? No, allora io ho detto fin dall'inizio che poiché il povero Cucchi era già stato ricoverato o 15 o 16 volte, non ricordo bene, al pronto soccorso per lesioni, percosse, fratture, per cui quella famosa al bacino che risaliva due anni prima, i giudici e gli stessi pubblici ministeri sono posti la domanda: ma se già per 16 volte è stato ricoverato avendo avuto percosse, lesioni, eccetera, eccetera, è mai possibile che questa volta siano stati gli agenti di custodia? E io ho detto: è possibile, sarà il tribunale decidere. Una cosa che è sicura, io l'ho detto fin dall'inizio, è che i medici, e l'ho ripetuto oggi, hanno una responsabilità, se non giuridica, perché li hanno assolti, morale. Perché il povero Cucchi, che aveva una vita, diciamo, complessa, di spaccio, di tossicodipendenza, di ricovero in comunità, ma perché è morto, secondo lei? Non è in grado di gestirsi. Perché è morto, secondo lei? Io ho letto le perizie che sono state fatte, perché non gli è andato da mangiare per tutto il periodo che è stato in ospedale, né da mangiare né da bere, perché quando lui ha fatto lo sciopero della fame. E secondo me i medici avevano l'obbligo di curarlo e di nutrirlo, non gli è andato né da mangiare né da bere, quindi non io, il tribunale. Ma di chi è la colpa della morte di Cucchi? Di se stesso? Cioè è morto per colpa sua? Per la sua vita? Morale. È morto per la sua vita? No, è morto perché non gli è andato da mangiare da bere. D'accordo, ma è morto anche per come ha condotto la sua vita fino a quel momento? No, se non andiamo al ponte di San Luis Rey per andare a vedere... No, ma questa è una domanda che le faccio direttamente. Cucchi, secondo lei è una vittima di circostanze, di una vita difficile, di una vita complicata, di una vita in cui più volte era stato coinvolto in vicende di pestaggi da parte di quel mondo che frequentava. La famiglia dice che è entrato in carcere perfettamente, con la salute perfetta. Allora il problema problema della famiglia, che voi sapete oltretutto ha patteggiato con i medici, perché sì, si è ritirato dalla parte civile prima dell'appello, perché medici ospedali, sì, hanno risarcito, vabbè, giustamente, come era un diritto, è che lui stava benissimo, era assolutamente in grado di gestire. Beh, oggi l'Aria ha detto che è stato massacrato. Ecco, scusi, ma se lui stava benissimo ed era in grado di gestirsi, allora i medici hanno facile replica a dire: se stava bene ed era in grado di gestirsi, e non voleva mangiare e non voleva bere e ha fatto lo sciopero, noi non potevamo obbligarlo. Invece io dico: no, era fragile, era in difficoltà, era una persona con, sì, dei problemi. Io voglio capire, secondo lei è morto perché aveva dei problemi, è morto anche per colpa sua? Questo No, ho detto che era giusto morire. Oggi ZAP, il sindacato di polizia, persona, dice, il sindacato, scusi, di polizia dice che le persone che hanno una vita dissoluta, le persone che hanno una vita dissoluta si devono prendere la responsabilità di quello che fanno. Io non ho detto, io ho, credo, un mio equilibrio, lo considero una vittima, uno che purtroppo ha perso la vita. Poi se mi dice sono d'accordo che a Roma gli intitolano una via a Roma, e dico che non sono d'accordo. Perché? Perché un conto è essere una vittima, le vie di solito si intestano a persone che sono un esempio. Dunque lui non era un esempio. Ma non mi sembra che sia un esempio da intitolargli una strada. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Allora, abbiamo con noi Carlo Giovanardi, senatore del Nuovo Centrodestra. Il SAP, Gianni Tonelli del SAP, a Parenzo, che non lo sa sicuramente, ha detto oggi: no, l'ho letta, se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze, senza che siano altri, medici, infermieri o poliziotti, in questo caso, ad essere puniti per colpe non proprie. Beh, anche il SAP poteva evitare. Giovanardi, condivide questa cosa? C'è un morto. Come ho detto più volte, io con Muccioli, l'indimenticabile Muccioli, con Don Gelmini, con Don Picchi, ho visitato decine e decine di comunità, ho avuto contatto con migliaia di ragazzi e ragazze che erano nelle condizioni, hanno avuto la vita di così, a cui ho sempre spesso piena solidarietà, lottando con loro per riuscire a... Scusi, però i genitori dicono che era uscito fuori da e tutto. Continuo a dire quello che ho detto sempre: state lontani dalla droga. Vabbè, d'accordo. E ragazzi, state lontani. Dunque dalla lei droga. Vuol dire che la droga, perché? Che la droga è stata responsabile della morte di Cucchi? No, queste sono filosofemi da due soldi. Allora, ci sono persone, io le sto chiedendo perché secondo lei è morto Cucchi. Ci sono persone che muoiono di overdose per la droga, ci sono centinaia di migliaia di persone che muoiono per patologie collegate direttamente alla droga, ci sono persone che si rovinano la vita per la droga, ci sono purtroppo persone che per vivere dentro quel sistema devono anche spacciare come faceva Cucchi. E io, ma dice la famiglia che non lo faceva, comprendere umanamente che uno spaccia anche perché, però noi ritengo che spacciare droghe su una cosa particolarmente onorevole. Dunque lui è finito in quelle condizioni perché spacciava? Lui è stato picchiato 16 volte dai suoi, diciamo, nel giro. Ma al di là della questione dei medici, perché è morto secondo lei? Perché è morto? Sarà fatto lei che ha letto tutte le carte. Scusi, c'è scritto, se uno avesse la pazienza in questo paese, come ho fatto io, di andarmi a leggere tutte le perizie, perché è morto? Scoprirebbe che la perizia ha scritto che poveretto era 40-45 kg, non c'era più, sostanzialmente ha mangiato se stesso, era già magro, era già deperito, aveva già dei problemi quando è entrato in carcere, quando era malato all'ospedale per parecchi giorni non ha né mangiato né bevuto. E perché secondo lei? Perché faceva lo sciopero della fame. Perché lo faceva? Perché protestava rispetto all'arresto. Poi ci sono varie versioni, c'è chi diceva aveva lasciato la roba in casa, che poi hanno scoperto, cioè la roba, la droga, e quindi era la preoccupazione che se coloro che gli avevano fornito la droga scoprivano e quindi gli veniva sequestrata, era preoccupato di questo fatto. Lui ha scritto una lettera a Don Picchi, che è nota, in cui... Dunque, secondo aiuto. Lei alla fine è il suo mondo che l'ha ammazzato, che l'ha portato alla... Ma non dico neanche questo, dico che se i medici avessero preso atto delle sue condizioni... Però la famiglia dice che non era più né drogato né spacciava, cioè era uno a posto, cioè che è stato ammazzato solo per le percosse. No, allora... i processi a che cosa servono? Cioè io vorrei capire perché i giudici popolari, qui siamo in assise, i pubblici ministeri, i magistrati, che cosa servono? Sì. Perché se è tutto inutile, perché tanto Roma era pieno di manifesti, già da anni con scritto Stefano Cucchi ammazzato dallo Stato, massacrato di botte, eccetera eccetera. Allora, se voglio dire, i processi ho dovuto verso tre poveri agenti di custodia, tre persone che hanno avuto rovinato la vita, la loro famiglia, eccetera eccetera, non servono a niente. E allora non so neanche perché cioè sono vittime pure loro, diciamo. Era stato gli agenti di polizia penitenziaria, sono vittime pure loro. Scusi, qui c'è scritto: non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte. Stefano Cucchi assassinato dallo Stato. Poi la droga può dare dipendenza, la polizia dalla morte. Roma è stata tappezzata fin da allora di questi manifesti. Cioè questi agenti sono stati criminalizzati, dice lei? Accidente, criminalizzati, ma a parte il fatto che un agente si rovina come sa la vita perché viene sospeso. E dunque sono vittime pure loro? Eccetera, eccetera. Sono vittime di questa vicenda? Ma assolutamente sì, scusi, se uno sta sotto processo 4 anni e viene assolto in primo grado, in appello, e continua in tutti i tag a dirgli che sei un assassino. Ma la sorella perché continua a dire che è stato massacrato? Perché fa politica? Perché ce l'ha con lo Stato? Perché? Perché... L'ultima cosa che si può fare è pigliarsela con i familiari hanno la loro, come nel caso Uva, come nel caso, sono tanti casi da citare, in quei familiari... Vabbè, lei avrà un'idea, però, si sarà fatto un'idea del perché la sorella insiste su queste cose qua, nonostante due sentenze, pensa che ci sia un complotto dello Stato o qualche cosa? Davide, vuoi fare una domanda a Giovanardi? Io volevo dire a Giovanardi questo, sì, semplicemente questo volevo dire. La mia è una critica tutta politica, poi lui può fare quello che vuole. No, ci vediamo in tribunale, Parenzo, ne parliamo in tribunale. Spalle larghe, amico. Io sono ancora più larghe, ma i calunniatori, chi insulta... Un politico che querela un giornalista mi fa ridere, ma va bene, un politico che querela un giornalista mi fa ridere. La mia è stata una critica politica al fatto che lei, e questa è la contestazione che io oggi le rifaccio, in questi 5 anni ha, a mio modestissimo avviso, usato il caso Cucchi per ragioni politiche, per cui ancor prima che arrivasse la sentenza di appello di oggi, che io rispetto perché non mi trascina. Beh, ha detto che ti sei indignato. Mi sono indignato, ho detto perché cosa? Per quei politici che in questi 5 anni, e lui non è il solo, ma è uno di quelli, hanno usato politicamente il caso Cucchi. Vabbè, questo forse Parenzo non ha l'intelligenza di capire. Io avevo la delega l'intelligenza di capire che se un politico nel governo Berlusconi firmare l'accordo col governo degli Stati Uniti. Io ho detto un'altra cosa, lei può dire che tossicodipendenze, ho girato tutte le comunità. Giovanardi, per concludere, è morto, questo l'abbiamo già detto, è morto per prendere posizione. Sì, ma ho capito, è il suo dovere prendere posizione sulla vicenda Cucchi, ma Cucchi è morto perché è drogato? Perché era drogato, perché era nel giro della droga? Cucchi è morto perché non lo hanno curato e non gli hanno dato né da mangiare né da bere. Questo non lo dico Carlo Giovanardi, questo l'ha detto il processo. E che percentuale, allora, e che percentuale dà di responsabilità alla vita che ha condotto Cucchi? Ma quando io vedo casi di migliaia di persone che attraverso questo meccanismo hanno o rovinato la loro vita, sono finiti in comunità, è evidente che la droga ha una sua responsabilità. Allora, in questo caso quanta responsabilità? Nel decesso ha una responsabilità come tutti quelli che sono purtroppo vicini. Un attimo che devo chiudere. Rovinano la vita con la droga. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io vi adoro, ogni giorno vorrei fare la zanzara. Ma no, da manicomio siete voi e mi ci mandate pure al manicomio oltretutto. Allora, ma io no, da manicomio è lei e tutta quanta la squadra che fa capo a lei. Non so se qualcuno sia dalle parti di Siena, perché credo Parenzo si trovi a Siena, ecco, lo può avvertire tramite piccione viaggiatore? No, c'è, tramite piccione viaggiatore che siamo in diretta? Bene. Allora, io adoro Piero Ostellino, ex direttore del Corriere della Sera, meraviglioso personaggio, polemista, uomo libero. soprattutto Uomo Libero. Ecco, però su Renzi secondo me esagera un po'. Va bene che bisogna sempre distinguersi, bisogna sempre andare contro, figuriamoci, noi siamo maestri in questa cosa qui, e uno deve essere istituzionalmente contro il potere, istituzionalmente contro contro chi comanda in quel momento, così quasi in default. Però ecco, Ostellino che dà al Renzi del duce minore, questo francamente mi sembra eccessivo. Qui non si corre alcun tipo di pericolo di democrazia, non c'è nessun pericolo che stiamo correndo perché viene abolito il Senato, perché uno... Cioè, si ha la fissazione, l'idea, c'era pure con Berlusconi, che se uno ha, che pure aveva altre problematiche come conflitto di interessi, eccetera, eccetera, le televisioni che Renzi non ha... anche se alcune televisioni lo adorano, questo non significa che ne è proprietario, dunque è una cosa ben diversa da Berlusconi. Qui c'è la fissazione che se uno ha un sacco di voti e prende il 40, il 45, il 50% improvvisamente diventa il dittatore, cioè quello che comanda. Beh, certo comanda, perché è giusto che sia così, ma non è che diventa il dittatore che tutto può. In Italia non si può fare un cazzo, avete visto che non c'è certezza di nulla. Una vicenda come quella di De Magistris viene cambiata dopo 28 giorni dal TAR, dal TAR, rimettendo in gioco paradossalmente anche Berlusconi. Dunque due pesi e due misure, una cosa su De Magistris, un'altra su Berlusconi. Non c'è la certezza di nulla, di niente. Poi uno dice, perché le aziende straniere non vengono a investire qui? Beh, non c'è la certezza di nulla. Non è che un verdetto è chiaro e definitivo, nulla. Adesso sulla vicenda di Cucchi, di cui abbiamo parlato fino adesso con il senatore Giovanardi, beh, voi non vi aspettate che magari per il clamore che c'è in Cassazione non si annulli tutto e non si rifaccia il processo da capo? Poi vedrete se non sarà così alla fine. Ma eravamo partiti da Ostellino. Renzi è un piccolo duce? Ma un duce minore, perché insomma non credo che ci sia un pericolo di fascismo in Italia, e tantomeno che venga da Renzi. Però c'è il pericolo che nasca una sorta di autoritarismo mascherato da riformismo. Ma tu l'hai capita, Parenzo, l'autoritarismo com'è dipinto da... No, guarda, quello l'ho sentito ieri, no, mi è sembrato fondamentalmente fuori luogo. Ci si può criticare, si può criticare come si vuole, Renzi, è giusto e legittimo criticarlo, ma figuriamoci. Però la critica così tanto per farla mi sembra pur fatta da uno che, persona che io stimo come Ostellino, figuriamoci. Però mi è sembrata pretestuosa proprio. Ecco, senti questa cosa, abolisce il Senato. Querela, ma poi torniamo sulla questione di Giovanardi. Ma non ti preoccupare. Querelare o no? Ma abbiamo tutto il tempo, gli hai dato dello sciacallo, quello ti querela. No, ma se gli hai dato ma tu puoi rincarare quello che mi dai la possibilità. Mi dai la possibilità, tu sei qui, cioè sei qui. Le dichiarazioni di Giovanardi, Giovanardi, di quello che ha detto. Io ho detto che lui ha usato politicamente. No, tu hai detto che è uno sciacallo. Da un punto di stai dalla parte sua. No, non sto dalla parte sua. Ma io per niente. Le spalle là. Forse non hai capito, io non sto dalla parte sua. Gli hai dato dello sciacallo o no? Abbiamo le spalle. Ma gli hai detto che è uno sciacallo o no? Politicamente ho fatto. Gli hai dato dello sciacallo. Ho fatto una, hai detto eccolo uno di Giovanardi. Ma vabbè, d'accordo, ma gli ha dato lo sciacallo o no? Giovanardi, ma guarda che uno è incredibile, ha detto una cosa e lei la ritira. Io ce l'hai, lo puoi rimandare. Ma hai detto ecco uno sciacallo, eccone uno. Ho detto che politicamente ha usato la morte, il corpo. Ma qui di non è il processo. Qui non è il processo. Non è il processo per diffamazione. Ma non è il processo per diffamazione, questo. Ma io mi devo prendere le cautele perché il signore. Ma è non furbo, c'è nessuna cautela. Non c'è nessuna cautela. Ma chi è furbo? Chi è furbo? Chi è furbo? Giovanardi, ho fatto una critica. Ma chi è furbo? Non ho capito. Mi può querelare solo. Ma chi è furbo? Ma chi è furbo? Chi? Chi è furbo? Tutti, siete tutti furbi. Ma chi? Ma di che parli? Ma di chi stai parlando? Ma hai perso la testa? Io non faccio nulla, non ho fatto nulla, hai perso la testa. Sono talmente lucido. Ma allora, che dici tutti contro tu? Siamo tutti, ma che dici? Avete... Ma di chi stai parlando? Ma di chi stai? No, ma devi mi devi dire di chi stai parlando, perché non si capisce. Non fumandomi delle canne come. Ma perché non rispondi alle cose? Parli di altro, al bar, alle canne, eccetera. Non stiamo parlando di altro. Ho detto che sono talmente tranquillo. Che ma allora perché? Ma che c'entro io? Ma cosa c'entro io? Ma cosa c'entro io? Ma perché mi attribuisci cose che non ho detto e cose che non e che cose? Allora non mi rompere i coglioni. Puoi far risentire 50. Ma allora non mi attribuire di essere d'accordo con Giovanardi. Perché c'è il stavo spiegandoti che non è che ho vai, mandiamo TG3 che è meglio, vai, mandiamo TG3. Ho fatto una critica politica. Vabbè, hai fatto una critica politica, Giovanni. Gli hai dato dello sciacallo e poi hai fatto una critica politica. Benissimo. Vuoi anche rifiutare quello che uno dice? Vabbè, d'accordo, non gli ha dato dello sciacallo. Allora, facciamo così: siamo d'accordo tutti. Parenzo non ha dato dello sciacallo a Giovanni. Così chiudiamo questa ridicola discussione. Mandiamo in onda Ostellino ancora, abolisce il Senato su Renzi, così siamo tutti d'accordo. Basta, non saremo più. Perché il Senato aveva una sua funzione, ce l'ha in tutto il mondo. Ora si poteva cambiare, si potevano cambiare i regolamenti parlamentari, ma non si risolve il problema abolendo una delle due camere della democrazia rappresentativa. Ed è stata abolita perché era un ostacolo a delle decisioni prese rapidamente ed in modo un po', diciamo così, autoritario. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Agenti, medici e infermieri, tutti assolti in appello per la morte di Stefano Cucchi. La famiglia verdetto assurdo, non ci arrendiamo, vogliamo sapere chi l'ha ucciso. Dopo il nulla di fatto di ieri, la nomina di Paolo Gentiloni, ex Margherita, la Farnesina, la Mogherini, da domani alla guida della politica estera europea. Il Quirinale rende pubblici i verbali della deposizione di Napolitano al processo Stato-mafia, il presidente volevano destabilizzare il sistema. Nuovo record disoccupazione, ma a settembre cresce il numero di chi ha trovato lavoro, segnali positivi per i giovani, Istat prosegue debolezza economia. Visco Banca Italia, bene conciliare crescita e conti pubblici, Padoan manovra apprezzata dai mercati, ora serve la fiducia dei cittadini e delle imprese. Scandalo Monte dei Paschi, condannato l'ex presidente Mussari con il vertice della banca, il titolo crolla ancora in borsa, meno 10%. 30 anni fa moriva Edoardo De Filippo, dalla tradizione napoletana al teatro moderno, ha raccontato l'uomo e la sua tragica comicità, il ricordo al Senato. Sentiamo subito qualche ascoltatore, dai. Andiamo, Gaetano, provincia di Frosinone, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Io sono un ascoltatore abbastanza assiduo della sua trasmissione. Sì, però sì. Devo rilevare che negli ultimi tempi, per inseguire il suo approccio, diciamo, iperlibera, un po' quello che diceva di Piero Ostellino, che è un giornalista che stimo molto, alcune volte ha delle posizioni eccessivamente superficiali e la portano sì, a... Sì, no, ma mi devi dire però di su che cosa... Te lo spiego subito. Intanto per quanto riguarda la manifestazione degli operai dell'altro giorno dell'Ast, sì. In cui lei si è espresso in maniera molto superficiale, anche diciamo immediata, sul fatto che erano diretti alla stazione Termini, che stavano manifestando, che potevano limitare la libertà altrui. In realtà poi le prime immagini, le prime descrizioni degli eventi hanno evidenziato come in realtà le cose fossero andate in maniera diversa. Quindi a parte che io ho sempre detto se è vera la versione della polizia, la trasmissione la invito a risentirla, è stato molto veemente. Ma la trasmissione, una trasmissione radiofonica non è un pranzo di gala, cioè non stiamo qui a Scusi un attimo, io non ho detto non ho espresso posizioni superficiali, ho espresso la mia opinione sul fatto che le manifestazioni vanno controllate, lo posso ripetere in maniera diversa due giorni dopo, e poi i toni sono una cosa, le posizioni sono un'altra. Ha presentato fatti sbagliati. Ancora insiste, io ho detto se è vero che la polizia, come quello che sostiene la polizia, se è vero quello che sostiene la polizia, che stavano andando a occupare la stazione Termini, hanno fatto bene a usare i manganelli. Ma le dico di più oggi, se un corteo ha delle prescrizioni, se una manifestazione ha delle prescrizioni, cioè restare all'interno di alcune vie e non in altre, anche uno spostamento verso un'altra direzione va gestito, va affrontato. Se nel gestire questo spostamento succedono degli incidenti, perché ci sono spintoni, perché ci sono bottiglie che volano, eccetera, e poi parte qualche manganellata, magari qualche manganellata di troppo, sono cose che accadono in una dinamica di piazza, a meno che uno non ci voglia vedere dietro, come dicono alcuni esponenti della sinistra, eccetera, la regia del governo per bastonare gli operai, per bastonare la CGIL e la FIOM, chiaro? Ma io non voglio entrare in questa cosa, però non è che sbagliano solo i poliziotti in piazza, sbagliano pure quelli che rompono i coglioni, chiaro? Anche loro sono dei lavoratori. Allora, io dico che Parenzo ti fa meglio, cioè rinvigorisce la tua identità. Allora, Paolo Liguori, a proposito di Liguori che avete sentito, ieri a Matrix, se non sbaglio, ha detto che gli operai che bloccano la stazione è diverso dagli esagitati, cioè c'è una differenza tra gli operai che bloccano la stazione e gli esagitati, un po' come... Ovvio. Sì, beh, certo, chi occupa la stazione, diciamo, se è operaio della FIOM va bene, secondo... No, non è questo il ragionamento. No, ma chiaro, sto esagerando adesso, mi capisci quando faccio un esempio in cui esagero? Ecco. Sì, è esatto, un'iperbole. No? No, è esatto, bravo, hai capito, cioè, sì, benissimo. Se è un operaio della FIOM che occupa la stazione... Ci sono differenze tra uno stronzo qualunque... Quale sarebbe lo stronzo? La stazione... No, che c'entra? Quale sarebbe lo stronzo? C'è una manifestazione... No, una manifestazione di studenti, una manifestazione di studenti... No, ma stai... Tra uno stronzo, te lo dico tutto tranquillamente... Sì, dimmelo. Tra uno stronzo qualunque che blocca i treni perché è un pazzo... Perché è un esagitato. Ma che c'entra uno da solo? Che c'entra uno da solo? Ma che c'entra uno da solo? Una nota sigla sindacale, sì, che per mezz'ora provocano un disagio. C'è una differenza tra i signori della Val di Susa, sì, e io, tra i centri sociali estremisti e gli operai della FIOM. C'è una differenza, c'è una differenza. Fondamentale, se non si sa distinguere non si capisce un cazzo nel merito, capito? Poi puoi ridere, ma purtroppo è così, cioè, essendo tu privilegiato. Sì, signor, ma capire, questo non c'entro io, ma che c'entro io? 500 posti di lavoro. Ma cosa c'entra? 500 posti di lavoro. E uno che ridere. Dice, a parte che non è dimostrato da ridere. Allora, tu da ieri sapevi, sì, che quegli operai volevano bloccare la stazione, allora, di Roma. Devi stare, cioè, tranquillo. Quello hai dato la sentenza. Tant'è, sì, che t'hanno menato. Devi stare devi stare menato, tranquillo, no? Un attimo. Allora, detto che, sì, non è, sì, così, sì, sì, certo. Renzi stesso ha chiesto scusa. Alfano, vabbè, vuoi fare la trasmissione? Tu, vai. Più vai. Di Alfano. Vai. Tu più di Alfano sapevi già quello che era successo in piazza. Vai pure. Prima ancora di sto andando. Vai pure. Prima ancora di vedere quel che era successo. Quando è finito, povero. Più di Alfano hai sentenziato. Parte che era l'altro Alfano ieri. Stesso, parte che era l'altro Alfano ieri, stesso, l'altro ieri, ieri invece Alfano stesso ha detto no, solidarietà ai poliziotti. No, erano voci. Ha detto che erano voci. Ha detto che c'erano voci. Erano voci. Sì. Quindi tu hai più voci di Alfano. Sì. Benissimo. Tu hai più voci di Alfano. Straordinario. Allora, come al solito sei sfuggito alla questione che ho posto. La questione di che fondo un'altra. È che c'è una differenza, sì, perché bloccare. Allora, vabbè, l'hai detto. Adesso stai calmo. L'hai detto. Allora, beh, certo, fondamentale. Se un gruppo di manifestanti per una causa che è quella della TAV blocca la stazione, non va bene. Se invece un gruppo di operai che protesta per la perdita di lavoro, va bene. Questa è la tesi di Parenzo. Fate voi, aggiudicate voi. Gaetano, provincia di Frosinone. Cioè, se un gruppo di Notav per la causa Notav blocca la stazione Termini, sì, questo va, non... questo è da eliminare. Io sono qua dal Moro, tranquillo. Al contrario, quello è normale, quello è normale. Ma la taverna del capitano, il mio amico il Moro. E l'altra invece, chi invece fa la manifestazione? Gli operai? Sì, tutto ma bene. È diverso. Beh, ma è decisamente certo. diverso. Beh, che siano diverse le due manifestazioni, questo lo capiamo da soli. No, che sia diversa l'occupazione della stazione Termini. Nessuno ha detto, intanto Gaetano, concesso che quelli Vabbè, ma stiamo facendo un esempio. Gaetano, provincia di Frosinone. però deve essere Gaetano, provincia di Frosinone. Ecco, mi volevo interrompere, dimmi. Cruciani, per dire due cose. Allora, la prima è che in questo il paradosso, diciamo, la questione che lei ha posto non è in discussione in questo momento, perché non erano diretti alla stazione. Allora, basta con questa questione. Abbiamo ragionato per due giorni. Le volevo dire però una cosa, le ripeto ancora una volta, che stazione Termini o non stazione Termini, stazione Termini o non stazione Termini, si tratta di episodi che riguardano la gestione della piazza. Okay, e quando c'è, sono d'accordo con quei poliziotti che dicono che quando ci sono delle prescrizioni di un corteo ci si deve attenere alle prescrizioni di un corteo. Se uno vuole andare da un'altra parte e forza dei blocchi, può succedere che i poliziotti agiscono in un certo modo. Punto. Se mi permette un concetto, però la cosa fondamentale a cui lo invito a riflettere è che quelle persone, in un contesto economico e sociale come quello che viviamo in questo momento, stavano manifestando per un posto di lavoro. Vabbè, ma quello è indifferente, non è importante perché uno manifesta. Uno può manifestare anche per il diritto allo studio. In Italia si manifesta per un sacco di cose. Non capisco perché quelli là sono più degni di quelli della TAV, secondo Parenzo. È una cosa incredibile, incredibile. Ma cosa cazzo c'entra? C'è una vita, ma come che c'entra? Lei, caro Cruciani, lei per inseguire. Ma non c'entra nulla. Ma io non sto dicendo che non hanno diritto di manifestare. Ma scusi, Gaetano, io non sto. Io non sto dicendo che non hanno diritto di manifestare. Io sto dicendo semplicemente che una manifestazione vale l'altra, a meno che non ci siano manifestazioni violente, che è un altro discorso. Ma chi l'ha detto? Ma perché? Ma perché? Ma quello è la base. Quello è la base. Posto che la manifestazione sia civile, quello è la base di tutto, ovviamente. Una manifestazione civile che occupa un posto è uguale per me che siano studenti, che siano disoccupati, che siano venusiani, che siano gente che pensa che le scie chimiche. Non mi interessa, è uguale. Identico. Per vivere, identico. Ovvero per un posto di lavoro che oggi significa vivere. D'accordo. Fate questa differenza, va bene, vai. Cesare da Milano. Va bene, io rifletto, per carità. Cesare da Milano. Sì, eccomi. Vai. Velocissimo, voglio tornare un attimo sul discorso Giovanardi e quell'individuo che c'è in collegamento. Sì. Allora, stiamo parlando quell'individuo, di... quell'individuo la può mandare a quel paese in 5 minuti, ma va benissimo essere chiamato individuo, non c'è problema. Vai, Cesare. Grande piacere essere andato quel paese da quell'individuo. Detto questo, stiamo parlando di un fatto che ha creato tanto dolore in prima battuta sulla persona che non c'è più, sui suoi familiari. Sui medici, sì, ma siccome discutiamo, tutti quanti discutono di un processo che ha visto la soluzione in via definitiva di tutti, adesso non è che possiamo tanto menarcela con questa cosa qui, discutiamo dell'esito di un processo, punto e basta. Non è che ogni volta devo mettermi a piangere, ho capito, è morto, per carità, siamo tutti dispiaciuti, parliamo del processo tranquillamente e serenamente, rispettando il dolore degli altri, punto. Cosa dobbiamo dire? Non è che ho detto che la sorella e la famiglia Cucchi sono dei criminali, nessuno lo dice e nessuno lo sostiene, dai. Assolutamente, detto questo io chiedo veramente con tutta la forza possibile al senatore Giovanardi di non arretrare di un millimetro, di portarlo in tribunale, di massacrare quell'individuo. Vabbè, perché questo chi insulta, mi perdoni, chi insulta. Vabbè, lui dice di avergli detto sciacallo politico e vedranno se la vedranno in tribunale. Ma non è vero, lui. Beh, sì, sciacallo politicamente, mica gli ha detto sciacallo come un animale, come gli animali di sciacalli, gli ha detto sciacallo politicamente, questo è evidente, no? Gli ha già dato lei un cazziatone in diretta. Ma il cazziatone era diverso. Il cazziatone era diverso per una questione di grammatica, di grammatica radiofonica, ma non è importante. Mi interessa dire a questo ascoltatore che io ho fatto una critica politica a Giovanardi perché in 5 anni, da quando è iniziato il processo Cucchi, lui ha preso, ancor prima che arrivassero le sentenze, le parti della polizia. Politicamente va benissimo, perché lui è un politico, dice io prima ero. Va bene, ma gli hai dato dello sciacallo, punto. Gli hai dato dello sciacallo. Ho detto che lui ha usato politicamente. Sì, e gli hai dato dello sciacallo. Esattamente, puoi anche rimandarlo. No, ma gli hai dato dello sciacallo politicamente, certo. Ma certo, che vuoi che sia, che gli hai dato? Che gli hai dato dello sciacallo come un animale? Scusa, ma gli hai dato dello sciacallo come un animale? Ma non dico, mica lo hai rappresentato come un animale. Gli hai dato dello sciacallo perché ho detto che ha fatto un uso politico della morte di Cucchi. E cioè, perché lui fin dall'inizio, in 5 anni, se tu fossi onesto, ripercorreresti tutto quello che io non gli do dello sciacallo. È uno che ha detto delle cose sbagliate. sbagliate. Lui, io dico quel che dico, mi assumo la responsabilità. Benissimo. Pagherò in tribunale. Ma che pagherai? Ma che pagherai? Ma quale paga? Non me ne frega nulla. Benissimo, l'unica perfetto. Cosa che dico è che lui in questi 5 anni, anche tutte le volte che l'abbiamo sentito noi una volta, ha dovuto chiedere scusa lui alla famiglia Cucchi per quello che aveva detto. Benissimo, io sto dicendo semplicemente che all'inizio... E io ho detto che lui ha usato politicamente il caso Cucchi, ancora prima che uscissero le sentenze. Bene, ottimo. Ecco, questo ho detto. Ottimo. Marco da Bologna. Sì, buonasera. Dica. Io vorrei raccontare un fatto che si ricollega al caso Cucchi. Sarò un po' vago su alcuni passaggi perché è un fatto secondo me molto delicato. Io faccio parte di un'associazione che si occupa di primo soccorso alle persone. Siamo stati chiamati per assistere a un TSO in una caserma. In questo caso, come sanno i TSO, ci sono presenti le forze dell'ordine, sindaco, medici, eccetera. In questo caso noi come volontari abbiamo assistito a un pestaggio gratuito all'interno di questa caserma. Cioè, chi ha pestato chi? Chi ha pestato chi, Marco? Le forze dell'ordine, oltretutto erano due tipologie di forze dell'ordine, non specifico quali, hanno pestato questa persona che doveva sottostare un TSO in maniera gratuita e in maniera gravissima, cosa che noi siamo rimasti sconvolti per molto tempo. Ci siamo chiesti, ma perché non avete denunciato questo pestaggio? Dicendo, ci siamo chiesti tra di noi se dovevamo fare denuncia, abbiamo fatto un rapporto ai nostri superiori. La risposta è stata, che ci è stata data è stata: se voi volete fare denuncia dovete farlo a titolo personale, l'associazione non vi supporta. A quel punto ci siamo fatti molte domande, perché comunque questa è una cosa grave, non c'erano testimoni, ce n'erano, ma andavamo contro delle istituzioni, per noi non ce la siamo sentita, ma soprattutto per il fatto che poi questa persona grande e grossa, grazie a Dio, nel giro di 10 giorni l'abbiamo rivista, abbiamo saputo più che altro. Però scusi un attimo, quando uno assiste ad un pestaggio, in questo caso di una persona che ha problemi credo mentali, no? Esatto, se non sbaglio, esatto. Da parte di ufficiali di forze dell'ordine, eccetera, la prima cosa che fa è va a una procura della Repubblica, va magari non dai carabinieri stessi, dalla polizia oppure dagli stessi carabinieri, e fa una denuncia per pestaggio perché ha visto una violenza. Mi pare una cosa normale, cioè omettere una cosa di questo tipo, comunque non andarci, mi sembra sbagliato. Noi abbiamo chiesto assistenza per questo, perché comunque l'avvocato di questa associazione ci ha sconsigliato. Perché ma perché vi ha sconsigliato? Non ho capito. Perché è molto delicata la cosa, ci ha sconsigliato perché per esempio il referto del pronto soccorso non parlava di lacerazione, eccetera, ma qui stiamo parlando di una persona di 120 kg, messa a terra e colpita a calci e pugni in maniera incredibile. Noi comunque, non essendo d'accordo tra tutti, alla fine abbiamo deciso, e soprattutto abbiamo deciso di lasciar stare, soprattutto perché la persona poi, grazie a Dio, non ha subito conseguenze gravi. Va bene, grazie io. Marco, non capisco cosa c'entra con la vicenda Cucchi, però lei dice in questo caso che ho assistito ad un pestaggio da parte di forze dell'ordine, dunque non è una cosa così strana. Ripeto, il pestaggio di cui parla, il massacro di cui parla la sorella di Cucchi, Ilaria Cucchi, non è stato però accertato in due gradi di giudizio. Allora, o si dice che questi giudici sono dei pazzi, sono degli incompetenti, oppure che hanno occultato le prove, oppure che le persone erano coperte, oppure non si ha fiducia nella giustizia. Uno dovrebbe dire: in Italia la giustizia non esiste, perché delle cose evidenti come quelle che dice Ilaria Cucchi scompaiono improvvisamente in due gradi di giudizio. Il bello è che spesso poi quando ci sono le sentenze di colpevolezza, invece tutti ad esultare. Oggi tutti dicono: è una vergogna. Io a questo mi ribello a questa vulgata. Con grande piacere ospitiamo questa sera una persona che è stata al centro indirettamente, devo dire, dell'attualità negli ultimi giorni. Fa lo chef, insegna cucina, credo, all'Istituto Alberghiero di Cicciano, provincia di Napoli, Istituto Alberghiero Carmine Russo. Ed è il padre di Maria Pia, che è la ragazza tredicenne, so se posso chiamare la ragazza, la bambina di 13 anni, protagonista dello scontro con Gasparri, con il vicepresidente del Senato nei giorni scorsi. Lui si chiama Antonio Tagliafierro. Buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Buonasera. Come sta? Bene, bene, grazie. Senta, Tagliafierro, Parenzo saluta il signor Tagliafierro. Buonasera, buonasera. Buonasera Parenzo. Allora, Tagliafierro, io la cosa che voglio sapere da lei è una. È vero, mi dispiace per quello che le è successo, perché... E che è successo? Niente, a lui nulla, alla figlia, a lui. Anche a lui, indirettamente anche a lui, perché insomma ricevere un tweet dal capogruppo, scusami. No, vicepresidente del Senato. Vicepresidente del Senato, autorevole esponente di Forza Italia, che si mette a, come dire, questionare con un cittadino italiano, con una cittadina italiana, con quei toni, tutta la mia solidarietà, amico mio. Va bene, la ringrazio. Tagliafierro, io la cosa che voglio sapere da lei è questa: lei ha incontrato nei giorni scorsi Gasparri al Senato, è così? Sì, è vero, Che come è stata la conversazione? Ma una conversazione cordiale tra due genitori. In cui si è parlato dell'uso della rete, del fatto che... Ma lui che diceva, no? Che diceva? Cioè, diceva come si giustificava? Con la mia figlia l'ha offeso. Che sua figlia l'ha offeso per prima e che lui ha risposto e poi? Non sapendo che era una tredicenne. In realtà poi se uno vede la foto si nota, insomma, che... Beh, oddio, si nota, adesso non esageriamo. Tredicenne no, magari si nota che è una ragazzina, ma addirittura 13 anni, uno gliene può dare 15, 16, magari, sai, quando uno fa un tweet poi non è che riconosce la foto e su, magari l'ha fatta pure senza guardare la foto piccola su Twitter, Tagliafierro. Però l'altro giorno Gasparri al Senato ha detto una cosa, ha detto, no al Senato, all'area che tira, sulla 7 ieri, ha detto: io non chiedo scusa perché in realtà è lei che mi deve chiedere scusa. Sua figlia ha intenzione di chiedere scusa a Gasparri? Ma sto scherzando. Ma non lo so, no, assolutamente, non è vero, perché dovrebbe chiederle scusa. Perché gli ha dato dello sporco, gli ha dato dello sporco. Ma era una citazione di una frase fatta da Fedez, non era un'offesa. Cioè lei ha scritto il coso colorato è una persona pulita e umile, coso colorato perché Gasparri aveva dato del coso colorato a Fedez, è una persona pulita e umile, a differenza tua che sei sporco e te lo credi perché sei un deputato. Cioè gli ha detto sostanzialmente che tutti i deputati parlamentari sono sporchi. No, non ha detto questo esattamente. Vabbè, te lo credi perché sei un deputato, ecco, che vuol dire? Ti dai delle aree perché sei un deputato. Te lo credi perché sei un deputato, sì. Bisogna interpretare un po' il linguaggio di una giovane. No, per carità, assolutamente. Però, ecco così, se uno va a guardare la successione delle cose, è stata sua figlia per prima a dare dello sporco a Gasparri, o no? Ma guardi, ripeto, mia figlia ha fatto una citazione di una frase fatta da Fedez. Questa affermazione di sporco dentro era una frase scritta da Fedez. Vabbè, comunque gliel'ha detto lei, però. Beh sì, l'ha scritto mio figlio, ovvio. Appunto. Cioè, voglio dire, comunque sua figlia non ha alcuna intenzione di chiedere scusa, come dice Gasparri. Guarda, è come se io le calpestassi volontariamente un piede e lei da un cazzotto. Io non so se sono io a doverle chiedere scusa o lei a me. Cioè, se lei sta dicendo Gasparri ha dato un cazzotto mentre mia figlia, diciamo, le ha dato un buffetto. Gli ha involontariamente calpestato un piede, non un buffetto. Perché involontariamente? Gli ha dato dello sporco? Perché il termine sporco, ovviamente, per una tredicenne non voleva intendere. Cioè, non ha lo stesso valore che se l'avessi detto io, ad esempio. Cioè, lei dice, siccome una tredicenne sporco ha un valore che non è quello che si può attribuire. Ha capito, è un po' come dire te la credi, non è un termine proprio che si usa tanto, però ecco, se sei giovani, insomma, no, ma ho capito perfettamente. Secondo lei invece i termini utilizzati da Gasparri, li vogliamo ricordare, che sono quelli meno droga, più dieta, poi ha aggiunto pure una cosa, meno droga, messa male, meno droga, più dieta, messa male, sono così gravi secondo lei? Guardi, allora, questo adesso riconferma il fatto che probabilmente lui sapeva che era una ragazza, perché dalla foto, per dire più dieta, ha visto la foto, altrimenti come faceva a dire più dieta? No, quello sì. Lei dice, siccome l'ha vista un po' in carne, bravissimo, e allora la foto l'ha vista. Dunque, secondo lei era consapevole che era ragazzina, che era piccola? Indubbiamente, ma anche se non lo fosse stato, voglio anche credere nella buona fede di Gasparri, cosa che non me del tutto. Comunque, giocare sull'aspetto fisico di una persona, di una ragazza, non è mai un fatto piacevole. Antonio Tagliafierro, chef, padre di Maria Pia, la ragazza che ha avuto questo battibecco pazzesco con Gasparri. Nessuno vuole fare le scuse, non si esce da questa vicenda. Attento al DDT, sai. Ma chi è Parenzo questo? E quando mai? Parenzo? Quando mai Parenzo non dice stupidaggine? Continua a essere il nostro idolo. continua. Presidente della Sampdoria Ferrero, pizzicato da Striscia. Tapiro, Tapiro. Sor Ferrero, come la va? È la guada questa. No, siamo venuti a portarle questo bel tapirino a Sor Ferrero, come la va? Beh, sono molto felice di questo. Sa perché glielo portiamo? Ma chi se ne frega, lo regalo mio figlio Rocco. No, ma come chi se ne frega? Rocco sarà molto felice di questo. Non ho dubbio. Come stai, Sor Ferrero? Bene, stai grazie. Bene. Stai? Stai bene? Sì, poi ce la contiamo. Bertivo, Vieni meglio. Anche lei è un bel ometto, Io sono anziano. Ma è numero uno perché non ha nessun tipo di timore reverenziale, dice, a parte che Staffelli manco sa il nome, Staffelli, bisbiglia il nome così. Poi c'è tu dice, ma che me frega a me del tapiro, regala a mio figlio Rocco, è numero uno totale, non ce lo togliete per carità con le accuse, razzismo, squalifiche, cose. Grande Staffelli. Ma questa frase. Ma quale frase? Che ha detto Amoratti. Io? Filippino. Caccia al Filippino. Ma io credo che tu hai sbagliato persona. Non ero io. Era l'altro. Ma quale altro? L'altro. Ma come mai hai detto così? Io sono il presidente della Sampdoria. Appunto. Era l'altro che ha detto questa frase. Quale altro? L'altro Ferrero? E certo. Chi sarebbe? Quello fa il cinema. Niente, non ce la fa a fregarlo Staffelli, Sentite, sentite. Ma non capisco, io non volevo essere per niente offensivo. È un po' di romanità, è scappata. È venuta fuori così. Sì, non volevo essere offensivo con nessuno. Pensa poi col signor Toir. Anzi, l'hanno attaccato di brutto, poverino. Ma lui non è filippino, lo sa, no? Ma l'ho saputo in televisione. No, lo sapeva prima, che è indonesiano. Vabbè, è sempre un signore del calcio italiano, no? Sembrava un'altra cosa, stava dicendo, sembrava. No, da oggi silenzio stampa. È sempre silenzio stampa per lui. Ancora su Buffon e Ilaria D'Amico, sentite questa. Ma lei sta facendo raccolta alla sorella d'amico? Perché abbiamo visto quella frase, io c'ho andiamo a Ostia Lido. No, questa è una cosa che Buffon si sta arrabbiando davvero. Ma quello si fa delle entrate pazzesche, quello stia attento. Visto quanto è grosso. Ed è geloso. Sì, però posso dire a Buffon, ti attacca la stretta, Buffon. Beh, perché si sa mai, E con quell'occhio da Volpino, non si sa mai. Qui siamo tutti bulldozer, no, Volpino? Siamo tutti bulldozer. Va bene, è con noi il padre di Maria Pia, che si chiama Antonio Tagliafierro, fa lo chef, ha detto che la figlia, insomma la famiglia, non intende chiedere scusa a Gaspari, perché dovrebbe. Beh, ti credo. E io gli chiedo ancora, ma ha intenzione di portare in tribunale Gaspari, cioè di denunciarlo? Non lo so, lo stiamo valutando con gli avvocati. Addirittura, e quale sarebbe il reato secondo lei? Beh, ingiuria. Ah, ingiuria. E il bullismo, cioè secondo lei sono frasi da bullo, perché qualcuno ha parlato anche di bullismo virtuale, non so, forse c'è un reato di questo tipo, cioè un bullo, si è comportato da bullo Gasparri? No, non c'è un reato, in realtà non c'è ancora una legge sul cyberbullismo, quindi non c'è un reato specifico per l'argomento. Ora, si è comportato da bullo, non lo so, non aspetta a me a dirlo, certo è stato poco opportuno, questo è poco. Ma scusi, sua figlia è rimasta più colpita, anche lei indirettamente, dalla frase sul peso o dalla frase sulla droga? Ma quella sul peso, decisamente. Sul peso, secondo me però paradossalmente quella più grave è sulla droga, cioè quando uno ti dice drogato, meno droga. No, ma drogato lo si può dire a chiunque, è un modo per, posso fare, come dire, con disprezzo una persona, sei un drogato, cosa vuoi che discuta con te? Insomma, ci può anche stare, non ci sta per una tredicenne, ma una discussione ci può stare. Quando si parla del peso e proprio si vuole puntare il dito sulla persona, esatto, che tu stai attaccando, quindi non mi si può dire poi, ma io non sapevo che era una tredicenne. Vabbè, quello non lo sapeva forse. Lei dice che invece dalla foto si vedeva chiaramente che era minore, siccome lui la foto l'ha vista, perché per dirle più dieta deve averla vista nella foto, era consapevole del fatto che fosse una ragazzina. Ma lei ha visto la foto? Sì, ma si vede che è una ragazzina. Sembra una ventenne, insomma. No, che sia una ragazzina si vede, però sa, oggi non è che è sempre chiaro, no? Una che ha 15 anni. Però che si vede che è obesa, sì. Sì, quello sì, ma è un problema il peso per sua figlia? Beh, in questa età sì. Poi magari col passare degli anni, come ha fatto il padre, supererà questo problema. A 15 anni è un problema. L'ha fatto il padre in che senso? Anche lei è sovrappeso? Beh, certo. Ma quanto pesa sua figlia, per curiosità? No, Io non ho nulla, per carità, a me fa schifo parlare delle cose che riguardano il peso. Non lo so, mia figlia non me l'ha mai voluto dire, non glielo chiedo neanche. Ma sta facendo una dieta, sta cercando di... Perché, scusi? No, è che ne so, magari si sente male con se stessa e dunque vuole... No, lei deve imparare a vivere bene con se stessa, poi se vorrà farà una dieta, ma questo è un fatto di tipo legato a questioni, come dire, tipo medico. Io cerco di insegnargli che uno deve stare bene con se stesso, non è l'immagine che fa la persona. No, magari io sono curioso perché i ragazzi a 13 anni, particolarmente, diciamo, lei stesso ha detto obeso, no? Quando parla di sua figlia. Cioè, ci sono questioni che riguardano gli ormoni o sono questioni che riguardano solo e esclusivamente il cibo? Ma ci sono fattori genetici sicuramente. Fattori genetici. Beh, altrimenti non si spiega perché mia madre è sovrappeso, sono sovrappeso e mia figlia purtroppo. Per cui questa roba qui detta dal vicepresidente del Senato è una cosa che lei psicologicamente come sta a sua figlia dopo questa frase qua? Cioè, quando un vicepresidente del Senato, una persona importante, le dà sostanzialmente dell'obese e dice che deve fare la dieta, che reazione ha avuto? Dice a questo punto chiunque si sentirà in dove sta. Mia figlia ha avuto episodi di bullismo a scuola che abbiamo superato con gravi difficoltà. E dopo un anno sentirsi dire questo, come dire, tu autorizzi chiunque a fare quell'affermazione. L'ha detto lui. No, ma ha ragione, il padre ha perfettamente ragione. Io denunceresti Gasparri, Parenzo, se fosse successo a tuo figlio una cosa del genere, lo denunceresti? Se fosse successo a mia figlia lo denuncerei e ti dico anche perché il punto è esattamente quello che ha toccato il padre ora, cioè il bullismo. Siccome Twitter lo usa per chiunque, è un grande mezzo e tutti i bambini lo usano, mia figlia ancora no, perché è in seconda elementare. Ma comunque lo usano tutti. E se l'offesa fisica è una delle cose più brutte, a scuola, specie alle elementari, è una delle prime cose che avviene. Mi fa sorridere il fatto che il vicepresidente del Senato si metta a lottare non con persone che hanno le spalle larghe, come possiamo essere noi o qualunque altro, ma con una persona comune, un cittadino comune, guarda la foto e addirittura dalla foto dice è una cicciona e quindi la insulto. Quella è la cosa più non sgraziata. Lascia stare la carica. Ma perché lei perché sta valutando? Vedi il vicepresidente del Senato americano, ad esempio, no? Ma non usano Twitter, non usano Twitter nel modo in cui lo usa Gasparri, non nel modo in cui lo usa. Esattamente questo è il punto. Però io voglio chiedere ancora una cosa ad Antonio Tagliafiero, che è il padre di Maria Pia. Ma dare del ciccione a una è una delle cose più sgradevoli che si possa fare. Perché allora state valutando ancora? Se è così grave, come dice lei, addirittura da essere. Cioè, si sente più nel mirino dei bulli oggi sua figlia? Dopo quello che è successo. Sicuramente. Cioè Gasparri secondo lei ha contribuito al fatto che magari lei oggi va a scuola e qualcuno la può ancora prendere in giro? Può essere successo anche questo, insomma. Cioè dopo questa cosa qua l'hanno presa in giro per colpa di Gasparri? No, assolutamente. Anzi, poi sa, paradossalmente noi abbiamo accettato l'intervista alle Iene proprio perché eravamo convinti a quel punto dare un valore mediatico alla cosa servisse proprio a evitare che qualcuno poi facesse un po' di emulazione, no? Per cui prende un valore mediatico, forse è servito da lezione agli altri. Tra l'altro poi mediaticamente chi se ne è avvantaggiato più di tutti è proprio Gasparri, che ultimamente è sempre in televisione, cosa che ma quello anche prima lo invitavano. Ma era un bel po' che non c'era in televisione. Ma lei politicamente lei è un militante dei 5 Stelle, ma politicamente Gasparri le fa orrore, le fa schifo politicamente? No, a me non fa schifo nessuno. No, ma schifo politicamente lo ma cioè per una cosa del genere si dovrebbe dimettere dal Senato, secondo lei? Guardi, il Movimento 5 Stelle, devo ringraziare adesso pubblicamente. Sì, hanno fatto tutta un'azione in Senato. Hanno fatto una richiesta in Senato di dimissione. Ma si dovrebbe dimettere, secondo lei, Gasparri? Beh, male non farebbe, anche perché nonostante tutto ieri non ha avuto l'altra possibilità, una trasmissione della 7 per chiedere scusa e non l'ha fatto. Vabbè, secondo lui non deve chiedere scusa, che deve fare? Non è che si può forzare su questo. Comunque, secondo lei si dovrebbe dimettere. Ma anche mandare sua figlia alle Iene forse non è stata una grande idea. Cioè, anche là, è lei che l'ha consigliata ad andare alle Iene, una ragazza di 13 anni, o no? Sì. Cioè, anche lei si può dire che ha sfruttato questa vicenda, o no? Ma no. Io ho semplicemente cercato di fare in modo che la questione prendesse una rilevanza, mediatica alta, per evitare... Che si fermasse a Twitter e poi la voce di mia figlia non era stata ascoltata da nessuno, cosa aveva sofferto mia figlia nessuno lo sapeva fin quando era andata alle Iene. Dopodiché altre trasmissioni mi hanno invitato, io non sono andato. La parentesi televisiva di mia figlia è finita con le Iene. Ma lei si vuole candidare alle elezioni? Ma no, non lo so, non ho idea. Non, ma la politica non c'è, anche se poi c'entra, perché il Movimento 5 Stelle, lei l'ha anche ringraziato, certo. Ha fatto un'iniziativa al Senato contro Gasparri. Lei è un militante del Movimento 5 Stelle, non c'è mica da vergognarsi per questo. No, ci mancherebbe. Appunto, però dico, lei ha intenzione di candidarsi, magari può essere un simbolo, no? Il padre di Maria Pia si candida alle elezioni in Puglia, fra poco ci sono le elezioni regionali in Puglia. Che ma dice? In Campania, se per questo le elezioni. Ah, scusi, in Campania non c'entra niente, anche in Campania, sì, pensavo alla Puglia, non so sì. Perché. Mi ero fissato che voi eravate residenti in Puglia, invece Cicciano, provincia di Napoli. Lei ha intenzione di candidarsi in Campania alle elezioni regionali? Guardi, se il mio gruppo, se il gruppo il Meetup di cui faccio parte, Meetup, Parenza, di candidarmi. No, Meetup, però. Mi smonta tutto. Ah, cioè, ma lei non esclude il fatto che si non esclude che si possa candidare alle elezioni. No, no, no, no, no, non lo escludo, ma non c'è niente di male, insomma. No, è per carità, sono diritti costituzionali. Per carità. Chiunque i requisiti del Movimento 5 Stelle può candidarsi. Beh, poi dopo questa, cioè ci sarebbe un grande slancio per la campagna elettorale, no? Il nemico di Gasparri si candida alle elezioni, fantastico. No, cioè, questo sarebbe strepitoso. No, lo sto dicendo io, certo che lo sto dicendo io. No, la sto creando lei. Però non escludiamo che possa essere un grande volano, no? Per magari vincere le, che farete, le parlamentari. No, ma guardi, assolutamente. Anzi, le dirò, paradossalmente, il Movimento 5 Stelle funziona al contrario. Che cioè quelli troppo famosi o che sono arrivati troppo, no? Bravo, funziona proprio al contrario. Ti respingono. Da noi si viene candidati perché vuol dire si è lavorato in mezzo alle piazze. A lei non le dispiacerebbe, su, diciamolo. Ma non lo escludo, io mi sono candidato anche alle primarie delle europee, sì. Quindi non è una cosa che posso escludere assolutamente. Vedremo, se mi dà la sua fiducia, sì, volentieri. Grazie, arrivederci, a presto. Arrivederci, a presto. Sua figlia che fa oggi, per esempio? Mia figlia stasera fa una festa di Halloween con degli amici. Perché attenzione, che ci stanno alcuni preti che dicono che Halloween c'è il diavolo, è una festa pagana, bisogna evitarla. Noi non siamo d'accordo, per carità. No, probabilmente è una festa pagana, ma lei si va a divertire, va a ballare con gli amichetti, a casa di amici, quindi non è che. Certo, comunque effettivamente non hanno tutti i torti i preti, probabilmente, però. Beh, adesso pure lei che dà ragione ai preti, non esageriamo. Vabbè. No, certo è pagano, non è certo una festa. La faccia mangiare meno, magari, no? Se pensa di avere dei problemi. Io dico così, io sono fissato con queste cose, lo dico per me, poi ognuno può vivere tranquillamente anche la propria obesità e può stare tranquillo anche. Vabbè, ma lei è magrissimo perché, come dire, ha già delle. Quanto pesa lei? Lei quanto pesa? Io peso più di 100 kg. Più di 100 kg, sua figlia che siamo sui 100, no, più bassa. No, 100. Guardi, le dico, sono sincero, non glielo saprei dire, non me l'ha potuto mai dire, non glielo ho mai chiesto perché io rispetto per queste cose. Ciao, a presto, presto. Arrivederci, buona serata. Questa radio deve chiudere, questa trasmissione, punto. Siamo tutti figli di Dio. Tutti dei figli di Dio, sì, sono d'accordo. Quelli sono stati fortunati perché stanno al callo, quindi diciamo, se devo mettere il cappotto, quelli manco solo le nomette. Gennaro da Caserta, vai. Giuseppe, buonasera. Dimmi. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Se ti ricordi, noi un po' di tempo fa abbiamo parlato, visto che tu hai fatto 3 giorni di show, no? Ci hai sfrancicato i coglioni dicendo che si doveva dimettere De Magistris, si doveva dimettere, lui è stato sempre un contestatore di queste cose. Ma si doveva dimettere non per la legge Severino, dico. No, semplicemente sì, perché è stato condannato. Devi stare tranquillo. Allora, io non ho detto che hai tutto il tempo che vuoi. Non ho detto che si deve dimettere, si doveva dimettere per la legge Severino. Parenzo dice così, vabbè, d'accordo. Probabilmente ha ragione. Trombi Parenzo, il Parenzo trombetta solo, però poi vabbè, trombetta solo, che vuol dire trombetta? Dice la sua, eccetera. Però Gennaro, ti sto dicendo una cosa. Io ho detto che per tutto il passato di De Magistris, per quello che rappresenta De Magistris, per quello che è stato De Magistris, semplicemente quando uno è condannato in primo grado, giusto o no che sia verdetto, si dimette, punto e basta. Cioè, però un po' di show adesso che lo hanno reintegrato con tanto di scuse, no? Penso che vorrebbe, lo potresti anche fare, sono tre giorni che stai lì sempre, non hai speso una parolina. Allora ecco, a volte, visto che sei diventato lo showman di Radio 24, no? Ormai fai show a tutta forza, lo potevi fare un po' di show dicendo che l'hanno reintegrato tutto quanto. Sì, l'ho detto oggi, l'ho detto anche oggi, è stato reintegrato dal TAR, certo. Sì, ma rispetto a quello che hai detto in discredita, ma però, che devo dire, ma che devo dire che è stato reintegrato dal TAR, che in Italia non c'è la certezza di nulla, non c'è la certezza di nulla. Adesso non mi ricordo bene il fatto che quando spese anche una bella parolina uno della Lega, non mi ricordo, all'epoca mi pare che era proprio quel vitellone di Borghezio, se non mi sbaglio. Adesso perché non la spendete le belle parole per il fatto che quasi è stato indagato Tremonti, insomma, perché doveva lasciare la città, vabbè, di Napoli, vabbè, ci vuoi dire, problemi, ci vuoi dire, ci vuoi dire, ci vuoi dire come dobbiamo fare la trasmissione? Benissimo. No, non devo dire riceviamo niente, Luciano, non devo riceviamo dire niente, riceviamo volentieri, no, i tuoi consigli. A Napoli sai come si dice? Come che si pure dice? Cruciano da campare, che pure Cruciano da campare, tu pure devi campare, tutti quindi dobbiamo, devi leccare, tutti devi, dobbiamo campare, devi fare, devi diventare di parte, di leccare, di leccare, lo faccio okay. Solo lo faccio solo in un altro contesto, amico mio. No, allora scusami un attimo, voglio dire una cosa in più, perché abbiamo su Giovanardi non diciamo più niente, no? Adesso annunciato, non so, ma di quello che vuoi, insisti ancora. Ma hai paura della guerra? Io ho 45 guerre, tu hai paura della guerra di Giovanardi? E vuoi ritornare su Giovanardi ancora? Ritorna avanti. Sto dicendo di più, perché hai fatto anche l'agenzia dicendo che Giovanardi mi ha querelato, quindi dico ancora di più adesso. Sì, ma tu non è che stiamo parlando di due entità distinte, cioè tu sei di questa trasmissione qui. È stata chiamata un'agenzia in cui ho ricostruito, abbiamo ricostruito. Poi vuoi prendere distanze pure da questo? Prendi le distanze pure da questo, che hai cazzo detto, me ne frega a me. Agenzie che Giovanardi mi ha querelato, benissimo. No, diciamo che vuole querelarti, più su Giovanardi. Che vuole querelarti. Diciamo qualcosa di più su Giovanardi. Giovanardi ha definito Cucchi tossicodipendente, anoressico, sì, epilettico, larva e zombie. Sì. E che cazzo vuole da me Giovanardi? Ha definito un morto. Prenditela tossicodipendente, prenditela con Giovanardi. Epilettico, larva e zombie. Prenditela con Giovanardi. Questa persona che ora mi vuole querelare, sì, che ora vuole querelarmi, lo dico con grande pacatezza, tranquillità, sì, armonia, amore e sincerità, lo ripeto, ha fatto un uso politico, sì, del no, corpo. Non omettere Cucchi, la parola che hai detto. Ha fatto un uso, puoi rilanciarla alle agenzie. Ma non c'entra niente, a me non me ne frega niente delle agenzie, insiste ha ancora. Fatto lo sciacallo, è impazzito. Da un punto di vista, puoi rilanciarlo alle agenzie. Ma non me ne frega niente, ma di quello che ti pare, ma che c'entro io? Ma cosa c'entro io? Giovanardi ha detto che Cucchi è tossicodipendente. Bene. Scusami, ha detto anche da noi in passato, lo potresti far risentire quello che ha detto Giovanardi. Perfetto. Sì, si può darsi adesso, se abbiamo il tempo lo facciamo sentire. Anoressico. No, dovresti farlo risentire ora. Sì, adesso lo andiamo a riprendere. Prima ancora che arrivasse la sentenza, al suo servizio. Io ho detto che in questi no, al servizio di nessuno, dell'informazione. Antonio, provincia di Caserta. In questi 5 anni, sì, in questi 5 anni alcuni politici hanno lucrato sul corpo di un morto, cioè sul corpo della di bene, Cucchi, Antonio della sua provincia di Caserta. Secondo lui chiaro, invece, però, secondo lui invece così, era secondo lui invece aveva titolo, chiaro, aveva titolo per parlare. Antonio, provincia in di Caserta. In questi termini tossico, ma quello è quello si valuta. Quello ci sono i tribunali. Ci sono i tribunali che lo valutano. Ci sono i tribunali che ha fatto un uso politico del caso Cucchi. Sciacallando. Antonio, provincia di Caserta. Puoi rimandare anche questa alle agenzie, non c'è problema. Ma non c'è nessuno, ma non c'è spalle larghe, faccia pulita e schiena diritta. Antonio, provincia di Caserta, con il mio stipendio da partita IVA. Antonio, provincia di Caserta, sono pronto, portatemi via tutto, non me ne frega un cazzo. Portatemi Antonio dalla provincia di Caserta. Ma sta scaldando troppo qua per Giovanardi. No, sono pronto. Antonio, qui, partita IVA. Ma che cazzo c'entra partita IVA? Ma non c'entra nulla. Pronto. Antonio, provincia non di Caserta, protetto da nessuno, ma non c'entra nulla. Dietro. Sono pronto. Sì, c'entra. No, non ti preoccupare, perché per le cose che dici qua sei pronto. Sono pronto, ti voglio tranquillizzare. L'ultimo euro per un signore che ha dato dello zombie. Va bene, a un morto. L'hai già detto. Per le cose che dici qua sei protetto, non ti preoccupare. Antonio, provincia di Caserta. Eccomi qui. Volevo e lo sai benissimo, dunque non dire cazzate. Antonio, provincia di Caserta. Ciao, no, volevo venire solamente per quanto riguarda la manifestazione che c'è stata, perché questo falso buonismo tipico italiano è un po' stomachevole. piena solidarietà per chiunque manifesti, in maniera particolare per chi manifesta difendendo il proprio, piena solidarietà, sì, per il lavoro, per, però io vorrei dire a questa, queste persone, ma vi siete mai trovati in un contesto dove ci sono migliaia e migliaia di persone, contenere la propria, il proprio voglio dire ordine è quasi impossibile, cioè era diverso se la polizia sparava, allora va bene, ma i manganelli, ma che cosa devono fare? Devono dire chiedo scusa Francesco, dove stai andando? Mi dispiace, lì non puoi andare. Poi ci lamentiamo quando noi cittadini in circostanze del genere o abbiamo delle difficoltà. Le forze dell'ordine ci devono tutelare o no? Io ho organizzato molte manifestazioni, ho 46 anni anche sì, a livello politico, ma sempre rispettando la legge. Sì, io non so se sono state violate le leggi, ho l'impressione che la manifestazione era organizzata per andare in certi posti, non si poteva andare in altri posti, da qui dei parapiglia, da qui delle persone che hanno cercato di forzare dei blocchi e dopo delle manganellate, punto molto semplice, che andassero verso Termini, che ci fossero le voci che andassero verso Termini, e che andassero da un'altra parte, non cambia nulla, la sostanza è una, che se tu cerchi di forzare un blocco, nessuno ha forzato nessun blocco. Ah, adesso abbiamo il coso, l'indagatore dell'incubo, sì, Dylan Dog, certo. Dylan Dog. Salvatore, provincia di Reggio Emilia, Dylan Dog, nessuno ha forzato i blocchi. È stata una trattativa come avviene. E poi è arrivato uno, boom, manganellata in testa, è arrivato uno, boom, in testa. Avviso scoperto ha manifestato. Bene. Avviso scoperto. Fermi tutti, fermi tutti. È un organizzatore riconosciuto. Certo, fermi tutti. Ogni anno più di 500 milioni di animali vengono rinchiusi in laboratori per essere avvelenati, mutilati, resi folli, sottoposti a scariche elettriche, iniettati con i virus. Fermiamo insieme questo orrore. Firmate la petizione su www.animalisti.it perché la felicità è anche il diritto alla vita e alla libertà. La voce che avete sentito, pro animalisti, che è l'associazione che ha denunciato recentemente, è stato da noi il fondatore, il presidente di questa associazione, te lo ricordi, il signor Caporale, Parenzo, il signor Caporale, che ha denunciato la Littizzetto per aver portato un porcellino in trasmissione, la voce che avete appena sentito a favore della, anzi contro la sperimentazione animale è quella di Romina Power. Buonasera. Salve, buonasera, come va? Bene, bene, lei come sta? Ci diamo del tu, le do del lei, come funziona? Come, o del voi, se volete. O del voi. Io, voi. A me è arrivata voce che lei o tu è molto cattivo. Molto, però noi siamo cattivissimi. Cattivo, qui. Cattivo, molto. Io spero che con me non lo sarà cattivo. Vediamo, se le donne mi mettono certo sempre una certa soggezione a me, eh. Però non è detto, alcune volte non è detto. Senti, da buon latino. Le voglio dire una cosa, ma lei è veramente convinta, per esempio, che chi mangia carne, adesso poi parliamo anche della sperimentazione, chi mangia carne, per esempio, il presidente dell'associazione Animalisti Italiani è convinto che chi mangia la carne indirettamente sia una specie di assassino. Lei la mangia la carne? Beh, ma più che assassino, avete notato come voi uomini incominciate a perdere a volte i capelli in cima alla testa dove c'è la chierica lì sopra? La chierica, sì, bellissimo. Quello è perché c'è troppa proteina animale. Ah, lei dice che più che assassini facciamo male a noi stessi perché... Anche a voi stessi, e poi anche se uno pensa dal punto di vista spirituale, karmicamente è molto negativo uccidere un animale. Ma lei da quanto tempo non mangia la carne? No, io purtroppo ogni tanto la mangio la carne. Mamma mia, che peccato mortale, cara Romina Power. Un peccato mortale. Cioè, lei sa che mangia delle cose che vengono dall'uccidere una... E lo so, perché io ho il gruppo sanguigno zero. E il gruppo sanguigno zero purtroppo avrebbe bisogno di carne, per cui ogni tanto proteina animale. Io pensavo che lei fosse vegana, che rinunciasse pure alla carne e al pesce. Invece niente, ogni tanto... Sì, un giorno forse lo diventerò. Un giorno lo diventerà. Ma secondo lei, che è donna di spettacolo, no? Portare un animale in una trasmissione, esporlo, ovviamente con un pretesto, non è che lo stritolano lì in diretta, è veramente una follia, come sostengono alcune organizzazioni, oppure no? Dipende, ognuno è intitolato al proprio pensiero, dipende come viene tenuto in trasmissione questo animale, quanto tempo, in che maniera. Io ho lavorato anche con... una scimmia una volta l'ha avuto come partner. Non lo dica al signor caporale lì dell'associazione animalisti italiani che si arrabbia. Ma quando, la denuncia, il padrone la... se lo voleva portare via, non voleva, si aggrappava a me, voleva stare con me lì. Vabbè, per cui, bene. Per cui denunciare la Littizzetto per una cosa del genere è anche ridicolo. Lei non se la ricorda quella scena lì, no? Perché lei vive in America. Non lo so, però caporale ha fatto delle cose anche molto positive. Hanno chiuso Green Hill, dove tenevano prigionieri tanti tanti animali. A proposito di Green e di sperimentazione, no? Allora, l'altro giorno qui a Radio 24 è stata ospite una ragazza che grazie, dice lei, alla sperimentazione animale sta cercando di risolvere la propria malattia molto grave. Lei è veramente convinta che si può fare un'altra roba rispetto alla sperimentazione animale? Io no, io sono convinto che bisogna tentare anche quella strada, la sperimentazione animale. Io venendo dagli Stati Uniti so che Obama ha stanziato 40 milioni di dollari per i metodi sostitutivi. Questo significa che è qualcosa in cui credere, sostituire d'accordo. L'animale. Vai, tutti quanti siamo contenti se invece di ammazzare gli animali facciamo esperimenti di altro tipo. Nessuno vuole lì, no? Fa il dottor morte, ammazza gli animali per divertimento. Oppure lei pensa che questi che fanno gli esperimenti un po' si divertano? Io non lo so, ma non so quanto cuore possano avere guardando negli occhi un animale al quale è stato attaccato una cosa per respirare, solamente fumi di tabacco tutto il giorno fino a che sta malissimo, fino a che muore. Sono degli assassini? Sono assassini? Sono assassini questi qua? Loro si stanno creando un cattivissimo karma e stanno facendo del danno inutile a degli animali. Noi dovremmo essere i custodi degli animali sulla terra, non quelli che li torturano. Ma gli animali sono come gli uomini, secondo lei? Cioè, se hanno lo stesso valore degli uomini? L'uomo può progredire spiritualmente perché ha modo di ha cognizione diverse. Sì. Purtroppo l'animale è già sfortunato a nascere animale, in più noi gli infliggiamo tutte queste torture. È terribile. No, ma io perché, ho chiesto se perché secondo non lei... hanno scelta. Negli Stati Uniti, per esempio, fanno dei bandi e chiedono alla gente che vuole essere consenziente e sottoporsi ad esperimenti di vario tipo farmacologici. E la gente però può scegliere, ma gli animali non hanno scelta, noi li intrappoliamo, li leghiamo, perché non parlano. Perché non sono animali però, c'è una differenza fondamentale, non hanno scelta perché sono animali, abbiamo scelto forse non per cattiveria, abbiamo scelto per risolvere alcuni problemi, alcune malattie, abbiamo scelto questa strada. Poi in futuro se sarà possibile evitarlo, di ammazzare, finché è possibile, finché servono per la sperimentazione, vabbè, ma su questo abbiamo idee diverse. Non vogliamo più che vinca la paura, non vogliamo scie chimiche in un cielo blu, il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere. Ragazzi, non siamo impazziti, non c'è la musica rock di rientro perché c'è la voce di Romina Power che è nostra ospite perché si batte per la causa del no alla sperimentazione animale. Io e Parenzo mi sembra che siamo d'accordo invece sulla sperimentazione animale, ma non perché siamo cattivi. Assolutamente, d'accordo. Fino a quando comunque, non ci sono alternative, forse voi siete d'accordo, ma l'82% degli italiani chiede l'abolizione della sperimentazione animale. Questo secondo quali sondaggi? Secondo un sondaggio che è stato fatto qui in Italia. Vabbè, se uno dice volete ammazzare gli animali, sì o no, uno dice di no, così in default. Cioè, chiaro, vai a spiegare poi la sperimentazione, eccetera, eccetera. Vabbè, ma non restiamo su questo. Ma lei pensa anche, per esempio, da questa canzone che ho fatto sentire, lei pensa anche che un grande pericolo siano le scie chimiche? Io sì, perché ci sono metalli pesanti tra le varie cose che emettono e sono nocivi alla salute dell'uomo e della terra. Dunque siamo tutti in pericolo perché siamo gli aerei passano sopra di noi ogni giorno, ogni secondo. Ogni giorno e fanno delle rotte che gli aerei normali non fanno, quindi. Ma da chi sono provocate queste scie chimiche? Tutti ce lo chiediamo. Ma c'è un complotto secondo lei? Io non lo so se c'è un complotto, comunque ci sono le scie e fanno delle rotte che non fanno gli altri aerei. Lei dice le scie chimiche non sono provocate solo dagli aerei? No, no, sono provocate dagli aerei, però voglio dire, non fanno le normali rotte degli aerei di linea. Ah, per cui poi vanno da altre parti, lei dice, cioè vanno rispetto a, a quelle degli, sì, aerei di linea. E anche devono avere, devono essere manipolati un po' dal governo, perché sennò non potrebbero andare su certi spazi aerei. Ah, sono manipolati dal governo, cioè c'è qualcuno che ci vuole far morire, non lo so, qual è la tesi di fondo, non lo capisco. Non lo so qual è, ci sono diversi film, ci sono molte cose. E lei ci crede a queste cose? A che cosa? Al fatto che, che ci siano qualcuno che manipola queste scie chimiche per farci del male, insomma, per provocare... viene chiamato geoengineering, geoengineering, no? Viene chiamato questo, io non lo so in come si chiama in italiano, loro giustificano così questo, però dico, la Terra ha sopravvissuto tanti anni senza questo e penso che sia andata avanti bene. Per cui... Come si può fare a... Cioè io non lo so, sono sempre scettico nei confronti di queste cose, cioè i governi che manipolano attraverso queste scie chimiche, sì, cioè che ci sono le multinazionali in mezzo, chi c'è di mezzo? Io lo vorrei sapere, non lo so. Sta indagando? Io no, io no, ma ci sono già dei film sull'argomento. Comunque dopo sei anni di America ancora parla un meraviglioso italiano, si chiama Power Parenzo, bisogna dirlo, no? No, stupenda, meravigliosa, io lo adoro. Ma una voce bellissima. No, mi piace moltissimo quando canta, anche quando canta davanti a Putin un po' mi dispiace. No, ma perché io... adesso questa cosa di no, Putin? No, ma lo dico perché lei che è americana, lei che è straordinaria, che io ho amato, mi sono il primo bacio forse alla mia fidanzatina l'ho dato proprio con le canzoni che lei cantava in... Beh, questo è molto bello, questo è molto bello. No, sì. Quale canzone in particolare? Quale assolutamente. Ma avevo quelle canzoni d'amore che lei ha fatto, io il primo la prima pomiciata, ecco, possiamo dire così. L'ho fatta davvero con le su quando lei cantava in duetto con Albano, quindi Felicità, queste robe lì. Sì. Bravissimo, felice, sta stupendo, ubriaco lì sotto. Beh, adesso la con felicità tassi, ubriaco, no? Addirittura completamente ubriaco, pazzi. Bellissimo, abbracciato alla mia bella e felicità, bellissimo, ubriaco, proprio felicità, ubriaco, anche ubriaco d'amore. Beh, no, ubriaco, no, non solo d'amore, perché insomma, no, non solo d'amore, anche qualche canna. Beh, ogni tanto si è fatto qualche canna nella sua vita. Lei si è mai fatto una canna, signora Powers? Sì. Spero di sì, penso. Ma negli anni 60 s'ammazzava come le sigarette oggi. Come le sigarette, ma anche adesso non è che facciano poi così male, dai, ogni tanto una cannetta si può fare o no? Una canna da pesca? No, le canne l'hashish, diciamo, l'hashish, il fumo, il cosiddetto fumo, dai, non fa malissimo, siamo Power o no? La cosa migliore è l'ossigeno puro, senza scie chimiche, senza niente. Ma no, ma che... Ecco, meno l'apprezzo, meno la... Quando va a cantare davanti a Putin, tu dici. Sì, ma anche quando passa di scie. Ma non è vero, ma Putin è un democratico, glielo dica che è un democratico, signor Power. Glielo dica a Parenzo. Io no, non entro in politica, non ho opinioni. Ho capito, ma nemmeno su Putin. E Albano dice delle cose meravigliose su Putin, lei ce l'avrà un'idea su Putin? No, io no. Lei no, non ha idee su Putin? No. No. Però è tornata a cantare per Putin. Le voglio bene lo stesso. Mica si vergogna a cantare per Putin, no? Non, io non ho mai visto Putin, francamente. Nel pubblico c'era molta gente, ma lui non c'era. No, vai d'accordo, però insomma, okay, sì, non c'era, ci sarà stato. Amica mia. Va benissimo, ma io l'adoro, felicità e cantare per Putin, la stessa, benissimo. Io l'adoro perché ho dei ricordi talmente belli che non posso attaccarla, perché per me è, come dire, no? È come il sole, la luna, bellissimo. Addirittura. Ma certo, siete in due, non è uno solo. Qual è quello cattivo e quello buono? Io in teoria sono quello cattivo, lui è quello buono, ma non è così. Ma in realtà non è così. Oggi, per esempio, non è così. Oggi non è così. No, oggi lui è un po' più cattivello. Mi sono appena beccato una querela del signor Giovanardi. Oh, ma qui sei fissato con sta cosa di Giovanardi, te. Ma sei, ma stai tranquillo, stai calmo, stai calmo. Pronti, che definì larva. Vabbè, ho capito. Ma comunque mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria. Piace la cattiveria. Dunque, noi vorremmo che lei parlasse un po' di Putin. esatto. Cioè, allora, Putin è un sincero democratico, secondo lei o no? Cioè, a lei fa piacere andare in Russia, è un paese meraviglioso, fantastico, pieno di democrazia, o no? Qualcosa ce la deve dire sul signor Putin. Questo è da capire. Cioè. No, io sono pochi i politici che hanno catturato la mia ammirazione. Quali, per esempio? Gandhi, Mahatma Gandhi. Ah, uno. Beh, siamo a Gandhi. Siamo Martin a... Luther King. Che ne so, in Italia voterebbe esatto. per Renzi. Fosse in Italia, voterebbe per uno come Renzi. Le piace? Non lo so, io veramente sono fuori dall'Italia, fuori dalla politica. Ho molto ammirato Benazir Bhutto, per esempio, però, come donna e come. Però a noi, sai che cosa è piaciuto a noi? È piaciuto molto questa non dico riconciliazione, perché dopo tanti anni, no, queste scene di no, Parenzo, di riconciliazione familiare con sì, il signor Albano. Sì, questo... ci riporta un quadro straordinario dei due artisti che si sono amati nella vita e che insieme hanno scritto la canzone italiana, quindi assolutamente. Vabbè, salutiamo la signora Paola. E quell'area Giovanardi, la felicità. Ma veramente felicità non l'abbiamo scritta noi. No, è vero. Vabbè, ma lei ha 13 animali, mi dicono, 13. Sì, esatto. Quali animali ha? Ho tre cani, piccoli. Sì. Sì, vabbè, ognuno c'ha la sua storia, non sono cani poi? Di razza scelti così, ma sono tutti delle poi? Storie particolari. Poi sì. Ho quattro pappagallini, ho due pesci, Meryl e Sydney. Vabbè, Sydney è nero, sì. Come Sydney. 4, 3, 7, 2, 9 poi? E poi ho quattro galline. Quattro, vabbè, ma hai capito, ma lei fondamentalmente in quanti metri quadrati vive? In 200, in 5.000? No, un normale giardino, una normale giardino. Casa. Però quello che dà più pensiero sono questi tre cani. Va bene, grazie, a presto. A saluti, presto. Signora. Saluti, saluti. Ah, già finita l'intervista? Ah sì, quanto deve durare? Qui lei non vuole parlare di politica, non vuole parlare di Albano, abbiamo parlato di animali e di scie chimiche, ottimo. Un abbraccio forte, arrivederci. Arrivederci, buonasera, ciao. Andrea, ciao, buonasera. Dimmi. Oggi sentivo in macchina, mi reputo una persona, non so esattamente sì. cos'è la normalità, però sì. uno che lavora va avanti e via tutti i giorni. Sentito la conclusione, o meno questa parte della conclusione della storia di Cucchi. Fermo. Parenzo, è il tuo momento, oggi. Sì. Tonelli? Sì. Sono Cruciani, ciao. Quella, Ciao. Senti, io però voglio commentare una tua frase che hai detto oggi all'ANSA in un comunicato sulla vicenda Cucchi, no? Sì. Siamo qui. La frase esatta è questa: in questo paese bisogna finire di scaricare sui servitori dello Stato le responsabilità dei singoli, di chi abusa di alcol e droghe, di chi vive al limite della legalità. Se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze, senza che siano gli altri a pagare, i poliziotti, infermieri, eccetera. Cioè tu stai dicendo che Cucchi aveva disprezzo per la propria condizione di salute? Io dico soltanto che io non sto dicendo questo, non mi metto parole in bocca, dico che obiettivamente Cucchi si è trovato in una certa condizione, quindi sì. Come lo è stato nel caso Uva o altre questioni. Poi alla fine se i medici per doverlo aiutare o situazioni in cui la persona si è trovata, ma voglio dire, non certamente a te è capitata una cosa del genere, a me è capitata, no? No, d'accordo, questo è certo, però nel giorno in cui c'è stata la sentenza, in cui sicuramente tu sei contento perché è evidente che hanno scagionato definitivamente. No, ma per amore della verità. Beh, sì, io, però Dio, tu hai detto che se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, cioè tu hai detto che... Questi sono casi tanti, io ho parlato di questo. Beh, però ti riferivi a Cucchi, dai, su. Ma perché io adesso, se me lo vuoi far dire, io dico io, no, in vabbè, questo Tonelli, caso dai, però, il caso Uva. Ma no, non bisogna essere... No, uno se no. scrive una cosa è quella, scusami. Non è questo. Scusa, tu in questo paese bisogna finirla di scaricare, a proposito della vicenda Cucchi, benissimo, sui servitori dello Stato la responsabilità dei singoli, bravissimo, di chi abusa di alcol e droghe, di chi vive al limite della legalità. Se uno non è questo. Cioè tu non ti riferivi a Cucchi? No, non mi riferivo a Cucchi. Cioè tu stai commentando il caso Cucchi, parli di uno che sì. conduce una vita dissoluta e non ti riferisci a Cucchi, però io voglio bene. Eh? Va bene, ma scrivi quello che vuoi. No, no, ma non sto scrivendo, siamo alla radio. Vai. Non è questione di questo. No, ma ti sto chiedendo, Tonelli, ti sto chiedendo. Non è questione. No, non mi riferisco a questo, voglio dire. I casi sono infiniti, sono tanti che accadono tutti i giorni. Allora, il problema è questo. Molte volte, come in questo caso, ai medici venivano attribuite delle responsabilità che penso non fossero loro, sono stati oggi scagionati. Allora, come nel caso Uva, come in altri casi. E allora, quando tu dici se uno conduce una vita dissoluta, ti riferisci anche a Cucchi. Sono tante, può anche darsi che potesse essere. Può anche darsi? Se tu fai una dichiarazione sul caso Cucchi e poi dici che, non, che Cucchi non c'entra, non lo devo capire questa cosa. Beh, va bene, non c'è bisogno di capire. Parenzo, gli vuoi dire qualcosa, Parenzo? No, io voglio dirgli certo che lui è un sindacalista, quindi il sindacalista può dire quello che gli pare, però è un funzionario di polizia e nel giorno in cui c'è stata la sentenza su Cucchi, almeno il rispetto per la morte di una persona ci dovrebbe essere. Secondo me è una mancanza di rispetto, perché non è che proprio oggi è uscito. Che dici, Tonelli? Secondo voi può essere, non è nessuna mancanza di rispetto, quindi nei riguardi di chi che sia, di nessuno. E quindi è morto, quella persona lì è morta, lo capisci o no? Tu sei un funzionario di polizia. Ma è morto perché conduceva una vita dissoluta, non ho capito, Tonelli, secondo te? Guarda, no, non diciamo delle sciocchezze, perché se ogni giorno ci sono decine di ragazzi o persone che vanno sulle strade, molte volte, perché magari non hanno rispettato i limiti o altro, il dover dire bisogna andare piano perché sennò ci si fa male non vuol dire mancare di rispetto, quindi non mettetemi in bocca parole. No, però tu dai, dici su, avanzi, dai. No, ma scusami, Tonello, tu hai detto è come se qua fossimo degli stupidi tutti, dai, avanti. No, non ma io non ti sto mettendo in bocca nulla, hai scritto tu se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute. Tu ho capito, ma tu ti riferivi in questo caso. Quando pensavo lì, pensavo che io stavo parlando in questione di carattere generale. Questo non per come hai detto, tutti assolti come giusto che sia, era il caso Cucchi. Bene. Sì, infatti, voglio dire, perché io ero convinto che fossero innocenti, infatti alla fine sono stati assolti. Vabbè. Ciao, a presto, ciao. A voi, salve. Ciao, Tonelli, ciao. Parenzo, dobbiamo chiudere? Chiudiamo tutto. Chiudiamo. E uno, però, quando parla, poi si deve assumere pure la responsabilità di quello che dice, no? Non tutto, dicendo, anche l'ho Tonelli. Anche scritto su, l'ho anche scritto su Facebook. Cioè, se uno scrive una cosa. Se uno scrive, no, ma sto dicendo Tonelli, questo della polizia adesso. Tonelli, che cavolo. Ma Tonelli fa il sindacalista, cosa vuoi? Lui è sindacalista, è anche un funzionario di polizia, quindi fa il sindacalista. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Comunque mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Radio 24, la passione si sente.